Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e di nuovo con voi per tutti i prossimi mesi, come sempre, per raccontare la cronaca della giornata economico-finanziaria. Come molti di voi già sanno, oggi forse è la prima giornata vera e propria in cui la borsa, in questo caso italiana, chiaramente risente delle tensioni, degli scricchiolii, della tenuta e dei dubbi sulla tenuta della maggioranza e quindi del governo. Lo dico perché oggi l'indicazione è apparentemente perlomeno netta, nel senso che Parigi è invariata, Francoforte guadagna lo 0,20%, Londra lo 0,70%, Milano, unica tra le principali borse europee, perde ed è arrivata a perdere anche il 2,5%, adesso ha ridotto il calo all'1,70%, ma insomma il messaggio è chiaro: le tensioni e l'incertezza sulla tenuta del governo penalizzano la borsa italiana e nel caso specifico poi penalizzano soprattutto Mediaset. Il titolo che sta perdendo il 6% in questo momento, ma è arrivato a perdere anche in questo caso ben di più, oltre il 7%, va detto che Mediaset a 3,15 euro per azione è ancora su livelli molto alti, quindi nulla a che vedere con un crollo del titolo. Però è anche vero che il calo di Mediaset è completamente, stando a tutte le analisi che abbiamo letto in queste ore, da legarsi alle tensioni sulla maggioranza e al futuro anche politico di Silvio Berlusconi. Ripeto, è arrivato a perdere oltre 7 punti percentuali in giornata, ma resta il titolo Mediaset vicino ai massimi da 2 anni a questa parte e ricordo che da aprile il titolo ha guadagnato oltre il 100% del suo valore, quindi siamo ancora su livelli molto alti. C'è chi dice, questo sarà uno dei temi di questa puntata, che in realtà solo parzialmente, solo marginalmente, la tensione sullo spread italiano, oggi risalito a quota 250 punti, con una riduzione anche della differenza tra noi e Spagna, ormai la differenza tra quanto deve pagare l'Italia per trovare i finanziatori del suo debito e la Spagna si è ridotta a soli 7 punti. Qualche mese fa e anche qualche settimana fa viaggiavamo ampiamente sopra i 20-30 punti di differenza, per cui la Spagna era giudicata più a rischio rispetto all'Italia. Ma dicevo, c'è chi dice che in realtà sia sbagliato leggere un automatismo tra crisi o rischio, crisi di governo e aumento degli spread in calo delle borse. La vera variabile sottotraccia in questo momento non riguarderebbe tanto la situazione politica o solo la situazione politica italiana quanto l'atteggiamento degli investitori, quindi delle banche internazionali nei confronti delle banche centrali, Federal Reserve ma non solo, e quindi l'ipotesi che poi le banche centrali prima o poi inizino a chiudere i rubinetti, soprattutto la banca centrale americana, e a dare un giro di vite alla liquidità che hanno regalato in molti casi e comunque che hanno garantito in questi anni. Perché? Perché l'America, che torna a crescere, inizia a generare inflazione e quindi, come più volte abbiamo spiegato, a un certo momento la banca centrale americana dovrà tornare a chiudere sul fronte dello stampaggio della moneta, chiamiamolo così, di dollari, oltre che in un futuro anche tornare ad aumentare i tassi di interesse. E secondo alcuni osservatori la vera incognita, quindi la vera reazione dei mercati, è proprio questa. Ne parleremo a borse chiuse. Per quello che riguarda gli altri titoli, segnalo che oggi c'è pochissimo, praticamente nulla di positivo tra i titoli di maggiore capitalizzazione. C'è invece, oltre a Mediaset, anche tutta la pattuglia delle banche, che con lo spread in aumento risente e segna i cali più significativi: UbiBanca meno 3,70, Popolare Emilia Romagna meno 3,60, UniCredit meno 3,5, Banco Popolare meno 3,20, Monte dei Paschi meno 3%, come Intesa San Paolo, e la Popolare di Milano che perde il 2,20%. Male oggi anche Gitec, meno 3,86%, Finmeccanica meno 3,60%. Euro su dollaro a quota 1,33,72. I temi di questa puntata, ricordo che questa settimana ancora siamo nella versione estiva del palinsesto, quindi il programma terminerà alle 18. Dicevo, oltre alla reazione della borsa italiana e degli investitori sulla temuta crisi di governo, anche un'analisi dei provvedimenti che verrebbero meno, provvedimenti per l'economia che verrebbero meno se si aprisse una crisi di governo. È il timore infatti di buona parte del mondo produttivo italiano è che una crisi di governo porti a un arresto di molti provvedimenti che servono alla nostra economia. Mi riferisco in primo luogo al debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese, e stiamo parlando di decine di miliardi da rimborsare, non dei 100 miliardi complessivamente di debiti che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese italiane, ma mi riferisco anche a tutto un insieme di altre iniziative che secondo vari economisti, se non attuate, rischierebbero di portare l'Italia a non agganciare quella ripresa più o meno forte, questo lo vedremo, che dovrebbe iniziare a palesarsi tra fine 2013 e inizio 2014. In apertura invece ci occuperemo del Consiglio dei Ministri, da cui si attendono tra l'altro risposte anche definitive sulla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Sono circa 150.000 i precari, di cui 86.000 a tempo determinato, 42.000 co-co-co, quindi contratti a progetto, e quasi 10.000 di interinali. E poi ci sono gli addetti ai lavori socialmente utili, che sono 18.000 altre persone. Il blocco del turnover in questi anni ha liberato, tra virgolette, 120.000 posti. E di questo parleremo in apertura, perché il Consiglio dei Ministri ha iniziato con qualche ritardo, anche perché prima del Consiglio dei Ministri, come ricordava il nostro GR, si è svolta una riunione molto ristretta tra il Premier Enrico Letta, il Vice Premier Angelino Alfano e il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, assieme al Ministro degli Affari Regionali Graziano Del Rio, per discutere della questione IMU. Il PDL infatti vuole che venga messa una parola fine alla vicenda IMU già entro mercoledì di questa settimana. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, e come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, il periodo è ancora, diciamo, agostano, però c'è subito un ascoltatore che dice che io arrivo a dare subito le brutte notizie, torno in ferie, guardi, potessi, ma non dipendono da me le brutte notizie, abbia fede, magari starei in ferie forzate se dipendessero da me. Comunque, l'oro questa mattina ha toccato i livelli più alti da inizio giugno, $1,407 l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, le quotazioni sono ferme a $106 al barile. Sull'economia internazionale continuano ad arrivare notizie di revisioni al ribasso per la crescita dei paesi, soprattutto i cosiddetti paesi BRICS. Vi ricorderete, Brasile, Russia, India, Cina, BRICS perché c'era anche il Sudafrica, ma alcuni aggiungono anche l'Indonesia e la Turchia. Ma insomma, il governo russo oggi ha abbassato le previsioni di crescita per il 2013, e non di poco, dal 2,4% all'1,8%. In un anno in cui comunque anche il Brasile non andrà oltre il 2% di crescita, la Cina non andrà oltre il 7% e l'India oltre il 4%, percentuali che a noi possono sembrare alte, ma in realtà sono molto molto modeste per quei paesi. E nel frattempo settembre sarà un mese molto delicato, non solo per la politica italiana già da inizio settembre, ma anche e soprattutto per capire quale assetto si darà la Germania, e quindi quale sarà l'asse politico anche dell'area euro. Abbastanza scontata la vittoria di Angela Merkel, si tratterà di capire con che percentuale, che forza avrà il partito anti-euro per il ritorno del marco, e altre variabili, per esempio la tenuta o meno dell'SPD. Oggi, probabilmente anche forse in un'ottica di campagna elettorale in Germania, il numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca, Hans Widmann, è tornato ad attaccare la BCE, quindi Mario Draghi. Lo ha fatto con un doppio tempo, perché in realtà prima Widmann ha detto che la Banca Centrale Europea ha dato un contributo notevole per risolvere la crisi, ma poi è arrivata la stoccata, perché ha detto: attenzione, i paesi dell'area euro non devono affidarsi alla Banca Centrale Europea per risolvere i loro problemi, e attualmente la politica monetaria della Banca Centrale Europea è entrata in un territorio sconosciuto e pericoloso. Massimo rispetto per il presidente della Banca Centrale Tedesca, ma perché il territorio è sconosciuto e pericoloso? Perché i tassi sono così bassi? Perché ha dato garanzie che farà mettere in campo ogni mezzo per difendere l'euro? Perché se fosse così, il territorio incognito, la terra incognita, varrebbe anche per la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, varrebbe anche per la Banca Centrale Giapponese, la Bank of Japan. Cioè, non è da sola la Banca Centrale Europea a essere entrata in un territorio sconosciuto e pericoloso. Temo che sconosciuto e pericoloso il territorio in cui la Banca Centrale, in cui le banche centrali vanno a stampare moneta, a tenere bassi tassi, a garantire la stabilità della moneta unica o della moneta che difendono, beh, temo che questo territorio sia sconosciuto e pericoloso soprattutto per i tedeschi, sconosciuto ai tedeschi e pericoloso forse per i tedeschi. Ancora per quello che riguarda invece le indicazioni che arrivano dall'Italia, perché al di là dell'intervista di oggi dell'economista Nuria Rubini, Dr. Doom, colui che per primo previse la crisi, anche se poi alcuni dicono che fu l'unica previsione che Rubini azzeccò, ma insomma Rubini ha detto che se non si trova una soluzione politica all'Italia lo spread italiano risalirà entro pochissimi giorni a quota 300 punti. Faccio notare che noi stiamo risparmiando qualcosa come 4 miliardi di euro in questo periodo per lo spread e quindi per quello che ci costa trovare finanziatori per il nostro debito, che è sceso a 220-230 punti. Rubini sostiene che appunto entro pochi giorni il buon momento del mercato azionario italiano potrebbe interrompersi con uno spread in risalita, in realtà si è già interrotto oggi, e conseguentemente con costi del credito ancora più alti e che dovrebbero tornare a salire se sale lo spread, e anche con costi per il finanziamento del debito ancora più alti. In tutto questo oggi arriva invece una proposta dal vicepresidente Confindustria, nonché presidente della piccola industria Confindustria, Vincenzo Boccia, che individua in circa 180 miliardi la spinta, la misura per tornare a crescere. 100 miliardi potrebbero arrivare dal pagamento immediato di tutti i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e altri 80 da un'operazione shock di attrazione di investimenti nel mezzogiorno con bonus fiscali finanziati con i fondi europei. Nel frattempo è ripresa regolarmente stamani negli stabilimenti di Albacina e Melano a Fabriano l'attività produttiva della Indesit Company, in attesa che il prossimo 17 settembre a Roma si riapra il tavolo ministeriale sulla vertenza che è iniziata dopo che la multinazionale dell'elettrodomestico ha annunciato 1425 esuberi in Italia, di cui 710 nelle Marche, nonché la chiusura delle fabbriche di Melano e Teverola in provincia di Caserta, con il trasferimento di parte della produzione in Polonia e in Turchia. Un'ultima notizia che racconta, come alcune volte facciamo, la crisi meglio di tante analisi. Secondo il rapporto CNA-SVG, gli italiani, questo lo vediamo anche dai dati sulle matricolazioni auto, tendono e cercano di tenersi sempre più l'auto vecchia, eppure con qualche ammaccatura. La ricerca infatti fotografa un aumento notevole degli italiani che ricorrono al meccanico, più 14%, ma aumenta anche l'età media del parco auto italiano, 10 anni e 6 mesi, la nazione che ha tra il parco auto più vecchio di tutta l'Unione Europea. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente adesso il primo tema è quindi un consiglio dei ministri delicato, perché sul doppio fronte IMU ma anche e soprattutto stabilizzazione del pubblico, dei precari nel pubblico impiego. Sì, perché il Consiglio dei Ministri dovrebbe concentrarsi sulla stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego, ma in realtà, come ricordavo, c'è stato un prevertice con Enrico Letta, Angelino Alfano, il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni e quello degli affari regionali Graziano Del Rio per discutere della questione IMU. Di IMU questa mattina aveva parlato anche il capogruppo del PDL alla Camera, Renato Brunetta, dicendo insomma noi vogliamo semplicemente che il governo mantenga gli impegni, l'IMU deve essere cancellata per tutto 2013 sulla prima casa e sui terreni agricoli. Sull'IMU noi ci aspettiamo che il governo Letta mantenga gli impegni e che cioè venga cancellata per tutto il 2013 l'IMU sulla prima casa e i terreni agricoli e venga fatta una riforma strutturale dal 2014, chiamiamola service tax, chiamiamola IMU federalista, non cambia purché non ci sia il gioco delle tre carte e che cioè nella service tax non si faccia pagare l'IMU sulla prima casa e i terreni agricoli. Quindi patti chiari, amicizia lunga. E non lo... Eh sì, e sull'IMU c'è stato, tra virgolette, anche un ultimatum del PDL, mi sembra di capire, ma ne parleremo più avanti, che non sia questo però il vero ultimatum, il vero scoglio del governo, per essere eufemistici. In realtà, dicevo, il Consiglio dei Ministri riguarda la stabilizzazione dei precari. Allora qui vale la pena capirsi, come sempre, con le cifre, perché il blocco del turnover, che vuol dire che quando va in pensione qualcuno nel pubblico impiego non viene rimpiazzato in automatico, ha liberato, tra virgolette, 120.000 posti, mentre con il congelamento delle retribuzioni gli stipendi sono scesi del pubblico impiego mediamente, anche qui con molte differenze perché c'è di tutto nel pubblico impiego, però insomma dello 0,6% nel 2012 e dello 0,7% l'anno prima. Se si aggiunge l'inflazione, perché questo è all'ordo dell'inflazione che va tra il 2 e il 3%, c'è stata una perdita di potere d'acquisto che è più o meno stimabile in un 2,5-3% annuo nel 2012 da un lato e poi nel 2013. Quant'è lo stipendio medio di un dipendente della pubblica amministrazione in Italia? Attenzione, anche qui la media rischia di essere quella dei polli di Trilussa, comunque di 34.400 euro lordi l'anno. Sempre a causa del blocco del turnover, il personale amministrativo italiano è a questo punto tra i più anziani dei paesi dell'Ocse. Pensate che da noi solo un dipendente su 10 ha meno di 35 anni, contro il 28% della Francia, quindi uno su tre, e anche uno su tre in Gran Bretagna. Poi conosco l'obiezione: noi abbiamo troppi dipendenti nel pubblico impiego. In realtà, secondo me, l'obiezione corretta è: noi abbiamo dipendenti mal distribuiti nel pubblico impiego. Perché lo dico? Perché la media, noi abbiamo 3 milioni di dipendenti nel pubblico impiego, sono circa 58 ogni 1000 abitanti. In Germania sono 54, quindi siamo lì. In Spagna 65, ma in Francia sono 94, sono quasi il doppio i dipendenti del pubblico impiego. In Svezia sono 135, da noi sono non troppi, ma sono mal distribuiti, poco produttivi in alcuni casi e quindi pletorici e con un eccesso di organico in alcuni dipartimenti e invece sottodimensionati in altri. I precari sono 150.000, di cui, ripeto, 86.000 a tempo determinato, 42.000 con contratti a progetto, 9.500 gli interinali, 18.000 gli addetti ai lavori socialmente utili. Sta seguendo il Consiglio dei Ministri il collega del Sole 24 Ore, Claudio Tucci. Claudio, buonasera. Sì, ciao, buonasera a te. Allora, che cosa dobbiamo attenderci? Perché inizialmente abbiamo letto stabilizzazione tout court dei precari, in realtà poi invece qualche distinguo sta emergendo, Claudio. In realtà non è proprio così, cioè non è che si stabilizzano tutti, cioè si stanno introducendo prime misure. Ecco, parliamo, intanto il Consiglio dei Ministri è appena iniziato, come sai i testi sono sempre un po' ballerini, i testi normativi, cioè comunque l'ipotesi di stabilizzazione totale non è questo di cui stanno parlando, ma di prime misure per accedere appunto a un abbassamento, di un abbattimento di questo numero, tu dicevi, del precariato nella pubblica amministrazione, questi 150.000 unità. Qui si parla di concorsi riservati sostanzialmente, che sono appunto appannaggio, secondo appunto le bozze di provvedimenti che circolano in queste ore, per i dipendenti, i lavoratori nella PA con contratto a tempo determinato che hanno almeno 3 anni di anzianità di servizio negli ultimi 5. Questa è sostanzialmente la platea di cui si sta discutendo. E questo è, di che numeri stiamo parlando? Perché in effetti all'inizio... Beh, sì, no, più o meno sì, ecco, si parte ora, i numeri che hai ricordato tu, 86.000 rotti, sono i numeri di contratti a tempo determinato censiti dall'ARAN, l'agenzia appunto che opera la funzione pubblica per conteggiarli, e qui chiaramente bisognerà fare un monitoraggio, tant'è che nel provvedimento, nelle bozze di provvedimento è previsto un monitoraggio di quelli che hanno questi requisiti all'interno di questa platea. Quindi all'esito di questo monitoraggio si saprà appunto quanti potranno accedere a questi concorsi. Cioè, in genere il principio di questo provvedimento è avviare un percorso che porterà negli anni a una riduzione progressiva del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Chiaramente il lavoro flessibile, come ricordavi tu, è nato, ha fatto il blocco del turnover, no? E su questo io vedo già molte domande, nel senso che alcuni ascoltatori vedono una contraddizione tra il blocco del turnover e la stabilizzazione dei precari. Ma in realtà, cioè, diciamo che è stato questo uno dei punti di critica forte a questo provvedimento che veniva dal centrodestra, il PDL infatti si è impuntato, la Costituzione prevede il concorso pubblico aperto a tutti, no? Come modalità esclusiva di ingresso nel lavoro nella pubblica amministrazione, è sembrata questa misura appunto un po' come un privilegio fatto a queste persone, in realtà come sempre le cose stanno un po' di mezzo, un po' a metà. In realtà sono persone che lavorano da anni nella pubblica amministrazione e che svolgono servizi molto importanti. Non sono stati potuti stabilizzare proprio appunto perché c'è una norma di legge che vieta appunto la conversione di rapporto flessibile a tempo indeterminato, quindi si sta studiando, si è creata una sacca di precariato molto forte con ripercussioni sociali importanti che chiaramente va affrontata. Ora questi numeri, parliamo della pubblica amministrazione in generale, faccio l'esempio appunto del comparto scuola che è fuori da questo provvedimento. Nella scuola il problema del precariato è endemico, cioè ci sono ogni anno una serie di precari che appunto cercano di arrivare nella cattedra ma non ci riescono perché hanno una serie di vincoli normativi e di bilancio molto forti. Quindi da un lato sono stati necessari, dall'altro appunto gettato una soluzione, insomma. Però come tu chiarivi, Claudio, vale per chi ha 3 anni di anzianità maturata negli ultimi 5 anni. Negli ultimi 5 anni, okay. Al momento la norma è questa. Ecco, a che ora si prevede il termine e se si prevedono altri ostacoli, perché appunto tu ricordavi anche le frizioni iniziali del PDL, di uno dei due partiti che sostengono il governo. Esatto, ci sono forti frizioni, diciamo il Consiglio dei Ministri al momento non ti so indicare una data in cui finisce, credo che arriverà stasera, è chiaro che i ministri proponenti, cioè D'Alia, c'è anche una parte molto importante che riguarda poi i fondi europei in questo provvedimento, nascerà un'agenzia che dovrà gestirli, circa 30 miliardi, qui in realtà si sta discutendo, appunto sta cercando di trovare una soluzione, c'è stato stamattina un incontro tecnico, sembrerebbe che alcuni nodi siano stati sciolti. Credo che stasera insomma ne sapremo un po' di più. Ecco, diciamo che i consigli dei ministri in genere sono sempre molto incerti, sia quando iniziano, non si sa mai quando finiscono, un po' questo è una caratteristica degli ultimi anni, no? Beh, staremo a vedere, sì. Ci ha abituato il Consiglio dei Ministri a ritardi e ad andare anche oltre la cena, però insomma l'importante è capire se passerà poi, insomma, quello che tu ricordavi, cioè complessivamente 150.000 persone. Vedo che c'è chi dice: lei ha citato solo la classifica, il rapporto tra dipendenti della pubblica amministrazione e popolazione dei paesi più statalisti come la Francia e la Svezia. A parte il fatto che insomma, Francia e Svezia sono paesi in cui non si può dire che il pubblico impiego lavori male, no, ma citavamo anche la Germania, e comunque la Germania ha un rapporto simile al nostro. Ripeto, nel pubblico impiego, se vogliamo uscire dalla demagogia e dalle battute, delle frasi fatte, il vero problema è la mobilità, la produttività, dove vengono allocate queste persone, uffici sottodimensionati, uffici invece con troppi dipendenti, non è il numero complessivo e neanche, se si va a vedere il rapporto col PIL, quella che è la spesa complessiva dell'Italia per la pubblica amministrazione, che è abbastanza in linea con il resto d'Europa, è che spendiamo male, non che spendiamo troppo. Comunque, grazie a Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Grazie a te, Sebastiano. Ciao. sì, ne parleremo ancora perché, ripeto, la nota politica del CDM più il pre-consiglio dei ministri sull'IMU, ma la borsa, qui ripeto, ci sono due analisi, quella più ovvia e semplice, le tensioni politiche finalmente, tra virgolette, si sono scaricate anche sul mercato e il fatto che il governo sia a rischio di tenuta ha fatto vendere Italia oggi, meno 2,1% la chiusura di Milano contro un calo dello 0,1% a Parigi, un aumento dello 0,13% a Francoforte, un aumento dello 0,70% a Londra, sembrerebbero essere un messaggio chiaro. Così come uno spread che torna sopra i 250 punti, così come un titolo come Mediaset che perde alla fine il 6,25%. Parleremo di borsa, ma parleremo anche di altre tensioni che stanno invece attraversando i mercati, che chiaramente tendono a colpire prima i paesi più deboli. Lo faremo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi capire quali tensioni stiano attraversando i mercati finanziari e il mercato finanziario italiano, e poi invece quali danni o quale arresto, quale battuta d'arresto potrebbe arrivare da un'eventuale crisi di governo. La borsa, dicevo, dato molto emblematico, meno 2,1%, oltre a Mediaset, meno 6,25%. Oggi con la risalita dello spread vanno male tutti i titoli bancari: Popolare Emilia Romagna meno 4,60, Banco Popolare meno 4,20, Finmeccanica meno 4%, chiaramente non bancario, Ubibank meno 3,80, Unicredit meno 3,50%. E poi anche il Monte dei Paschi perde il 3,40, Intesa San Paolo il 3,30, la Popolare di Milano meno 2,80%. Limita il calo in attesa dei dati di domani, e proprio sul Sole 24 Ore vi è stato fatto un ragionamento sulla riforma delle banche popolari. Prima di arrivare però al commento sui titoli con Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio, dicevo in apertura che non tutti sono d'accordo nel ritenere che, diciamo, l'aumento dello spread e il calo della borsa di Milano sia da attribuirsi solo ed esclusivamente al rischio tenuta del governo, ma che vi siano anche altre variabili ben più forti e ben più sotto traccia che nulla riguardano o poco hanno a che vedere con la politica italiana. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in studio il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti voi. Dunque, è chiaro, insomma, che un impatto delle tensioni politiche ci hanno avuto, lo vediamo dallo spread e dal calo della borsa, però c'è chi dice attenzione, in questo momento i mercati, quindi le banche, quindi gli investitori sono più attenti, sono più in ansia per quello che riguarda le decisioni future delle banche centrali, Federal Reserve, Banca Centrale Europea, che non sulle tensioni, diciamo, sulla tenuta politica del governo Letta. Sei d'accordo? Diciamo così, bisogna tenere quello che è importante, avere ben presente come si muove l'Italia all'interno di una cornice che è più grande, in modo che è più facile percepire poi perché noi diamo dimostrazione di debolezza relativa più forte degli altri. L'Italia è entrata nel rally di tutti i mercati, parlo dei titoli obbligati, dei titoli di Stato e delle borse, dopo tutti gli altri paesi occidentali. Noi abbiamo sofferto più a lungo degli altri, abbiamo corso più degli altri. È bene ricordare che adesso stiamo parlando di crollo della borsa, ma la borsa italiana ha aperto l'anno a 16.273 punti e diciamo si trova adesso a 16.977, quindi siamo ancora in rialzo noi sull'inizio dell'anno. Primo elemento. Allora, che cosa vuol dire questo? I titoli di Stato, parliamo di spread e parliamo di tassi assoluti, 4,44% il decennale italiano, spread 200, scusami, dimmi tu Sebastiano quant'era l'ultima valuta? 252. Ecco, ricordiamo che Monti se ne andò a 253 dicendo il mio obiettivo era di 253, cioè noi paradossalmente non siamo assolutamente sotto attacco. Semmai il mercato reagisce a un fattore di rischio. Allora, non possiamo dire che i mercati stiano attaccandosi già un'ondata speculativa per il panico sull'Italia, non lo possiamo dire, altrimenti andremo con uno spread a 500. Quello che possiamo dire è che nei momenti in cui c'è un grande nervosismo internazionale dei mercati finanziari, delle banche, speculatori e così via, sul sistema complessivo mondiale, l'euro e così via, quali sono i mercati più deboli su cui speculare? L'Italia, perché non ha una tenuta politica di sistema che certo faccia da paracadute. Allora qual è la morale di tutto ciò? L'Italia non è un sorvegliato speciale, l'Italia presenta più problemi di rischio di altri paesi, perché è una grande nazione, una nazione economicamente grande rispetto ai con un grande debito anche. Però è fragile di fronte alla speculazione, perché c'è l'effetto emulativo. Se un grande operatore vende titoli di Stato italiani, ce ne saranno altri 50 che dicono, se li vende lui vuol dire che l'Italia è in difficoltà. Noi siamo esposti a questo. Vi concludo con un ultimo spunto per capire meglio quello che succede. La Germania sta andando incontro alle elezioni. Come l'Italia e altri paesi, nei 50 giorni che precedono le elezioni, queste sono, basta prendere, sono fatti statistici, normalmente i mercati in Germania perdono circa il 5%, si calcola la soglia del 5%, per poi riguadagnarli dopo le elezioni. Ebbene, per la prima volta dal dopoguerra, l'indice DAX tedesco è in rialzo nei 50 giorni precedenti. Allora uno dice, ma sarà un fatto statistico? No, è un fatto di percezione di forza relativa sugli altri. Certo. Quando i mercati percepiscono un sistema politico forte e un'economia altrettanto forte come quella tedesca oggi, evitano lo scontro diretto, perché altrimenti rischierebbero pure di perderci i soldi. Poi, un'ultima cosa, attenzione, perché adesso è l'Italia, ma da tempo noi diciamo la corsa dei titoli azionari è stata troppo forte rispetto a quelle che sono le economie. Io ho preso un dato, ve lo porto proprio, l'ho preso adesso, dal 2009 l'attuale rivalutazione che c'è stata negli ultimi 12 mesi, diciamo così, la rivalutazione dei prezzi delle azioni negli ultimi 12 mesi è stata del 14% superiore alla somma di tutti gli utili delle società quotate. Quindi prezzi di borsa, utili delle società, non era mai successo dalla crisi dei titoli internet. Questo anche è un segnale che va tenuto presente, perché è un mercato che comincia ad essere davvero troppo gonfio. Gonfio perché c'è, lo aggiungo, anche molta liquidità in giro. Però, se ho ben capito il tuo ragionamento, qui c'è un problema di tensione, perché i mercati sanno che prima o poi la Federal Reserve, ma non solo, inizieranno a stringere. È un problema di braccio di ferro. Guardate, di ferro. Le banche centrali, noi siamo cresciuti, diciamo così, noi abbiamo visto un po' di tensione sui mercati, con le banche centrali che erano entità autorevoli ed indipendenti, che avevano una forza tale da non farsi condizionare dai mercati. La regola del you can't beat the Fed, come dicono in America, non puoi battere la banca centrale, ha sempre prevalso. Questo valeva anche per le grandi banche centrali. Purtroppo stiamo assistendo da un po', abbiamo cominciato noi europei, ricordiamocelo quando la Germania attaccava Draghi, ma anche in America, quando le banche centrali, invece di pensare a fare il loro lavoro di sostegno all'economia, diciamo sostegno all'economia, di stabilità dei prezzi o sostegno all'economia a seconda delle emissioni, cominciano a litigare fra di loro per dire ma l'economia va bene o l'economia va male, e i mercati naturalmente reagiscono come? Condizionandoli, perché se tu apri un dibattito io ti faccio crollare i titoli in borsa, insomma la tentazione di ritornare indietro, di non prendere decisioni c'è. Io a mio avviso siamo in corso un braccio di ferro molto forte per costringere le banche centrali a liquidità, mai piegarsi ai ricatti. Quindi il tuo ragionamento è, che l'avevamo già fatto, se non ricordo male, 2 mesi fa proprio in questa trasmissione, attenzione che i mercati vogliono fare pressione non solo morale. Vogliono anche far vedere una situazione peggiore di quella che non è. Non vogliono, no, lo dico a tutti quelli che sono in ascolto, non vogliono che le banche centrali aumentino i tassi, nel caso specifico la Federal Reserve, i tassi di interesse e vadano a stringere il rubinetto della liquidità. A quel punto, in questa tensione, i primi a rimetterci, diciamo. Per chiudere la domanda, noi stiamo facendo il rischio italiano qual è? Che ci facciamo del male da soli con questo non c'è dubbio. Clima in cui all'estero arriva un solo segnale, la paura dei ricatti, se cade il governo il disastro, se non cade il governo il disastro, insomma non possiamo fare di tutto una battaglia ideologica perché i mercati ci sfruttano poi per far soldi. Ci sfruttano tra l'altro partendo però da altri elementi di tensione, questo deve essere importante, non tanto la paura che arrivi un governo, ma il fatto di dire adesso non sono né di destra né di sinistra, guardano quello che si fa. Adesso io do un segnale alle banche centrali, e da chi parto dare il segnale? Dall'Italia, che è in questo momento il più attaccabile della dirigenza, è il soldato che rimane in fondo. E infatti oggi, se guardate la forbice, in alto i mercati dell'Europa, dell'Europa centrale e del nord, in ribasso noi. Grazie Alessandro Pratrotti. Grazie a voi. E adesso noi invece andiamo a commentare anche i titoli, poi invece ragioneremo di quello che potrebbe rappresentare un'eventuale caduta del governo per quello che riguarda gli stimoli all'economia, e quello è tutto un altro fronte, perché ci sono decreti che devono essere anche resi attuativi per quello che riguarda per esempio i pagamenti dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese. Ma adesso vorrei tornare invece sui singoli titoli. Al di là del ragionamento di Alessandro Praterotti, e quindi attenzione, l'attacco non è alla situazione interna politica italiana, ma è un braccio di ferro tra mercati e banche centrali che usa l'Italia come anello debole. Oggi la debolezza si è vista tutta, Londra era chiusa per festività, per Bank Holiday, ma Parigi, che era aperta, ha chiuso invariata, Francoforte ha chiuso con un più 0,20, l'America sta guadagnando uno 0,16, noi invece meno 2,1%. Con spread a 250, Mediaset la peggiore, attenzione anche qui a legarle in automatico alle vicende personali di Silvio Berlusconi, perché il titolo è comunque ai massimi e da aprile ha guadagnato un 100%, e quindi ci sta un po' di lead, meno 6,25% è una bella, bella caduta, però ripeto, da aprile il titolo ha fatto più 100%, vale 3,15 euro. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Radio Cori sulle 24 ore, e allora però per quale motivo cala così tanto Mediaset? Beh, certamente, certamente la Mediaset abbiamo visto come negli ultimi mesi si sia legata molto strettamente a quelle che erano le prospettive magari febbli di ripresa dell'economia italiana. È un titolo che spesso è stato legato a doppio filo a quelle indicazioni di diciamo minor calo del PIL o comunque segnali di ripartenza dell'economia che per l'Eurozona è attesa per la fine dell'anno. Una situazione di instabilità politica, ragionano i mercati, potrebbe far perdere all'Italia un po' il treno del recupero che l'Eurozona attende per la fine dell'anno, e Mediaset, essendo strettamente legata a questa ripartenza, anche perché il business di Mediaset è quello del mercato pubblicitario, quindi strettamente legato alla produzione e ai consumi soprattutto, oggi il mercato prende occasione per realizzare sull'Italia e per realizzare su Mediaset. Prende occasione, sfrutta l'occasione, prende pretesto, mi sembra anche una lettura un po' più articolata e, se posso permettermi, un po' più approfondita di certe cose che leggo, tutte di carattere politico, che scrivete, no? I mercati vogliono che se ne va. Attenzione a fare cortocircuiti, immaginando, a mio avviso, con un po' di provincialismo, che la situazione politica italiana preoccupi così tanto. Altra cosa è dire: iniziamo ad attaccare di nuovo l'Italia per far capire alle banche centrali che non devono chiudere i rubinetti o alzare i tassi di interesse adesso. Comunque, il traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo, al di là di Mediaset, oggi male anche tutto il gruppo delle banche, con lo spread comunque in aumento, anche se sono d'accordo con Alessandro Praterotti, 250 punti ci avremmo messo la firma un anno fa. Comunque, Popolare Emilia Romagna meno 4,60, Banco Popolare meno 4,20, Ubibanca meno 3,80, Unicredit meno 3,50, Mediobanca meno 3,40, Monte dei Paschi meno 3,30, come Intesa San Paolo, Popolare di Milano meno 2,80%. Andrea Fontana, c'è altro da aggiungere oltre allo spread? Beh, certamente è la settimana in cui le popolari, quindi gran parte dei titoli che tu hai citato, pubblicheranno la semestrale, quindi una certa cautela sui titoli c'è, e in questa mattina invece ha un po' tenuto banco prima che effettivamente l'effetto spread e l'effetto indici facesse un po' crollare, diciamo così, usando un termine un po' forte, i titoli bancari. C'era una grande attenzione su queste nuove voci che tornano tornano a essere d'attualità sulla riforma della governance delle popolari e su possibili nuove aggregazioni che avrebbero come pivot, diciamo, come titolo di riferimento, come gruppo di riferimento la Popolare di Milano, certo. Che infatti questa mattina perdeva sì, molto meno. Spieghiamo a tutti, un'eventuale riforma delle banche popolari le renderebbe più contendibili. In questo momento le banche popolari hanno da sempre uno statuto che le rende difficilmente scalabili, difficilmente acquistabili, perché c'è una soglia al massimo di azioni che uno può possedere, c'è il voto capitario per cui uno vota al di là delle azioni che ha, vota conto solo per un voto, una testa, un voto e via così. Al di là comunque delle popolari, andiamo anche su G-Tech, che sarebbe la ex Lottomatica, che perde parecchio oggi, è meno 4,70%, mentre vorrei chiudere con un titolo che tiene un po' di più, Parmalat, meno 0,60%. Per quanto riguarda G-Tech, un andamento strettamente legato a quella che è la discussione dell'attualità politica. Nel fine settimana, ancora oggi sui giornali, si è parlato delle mosse che sono allo studio del governo per reperire le risorse necessarie a questo taglio dell'IMU e agli altri e gli altri provvedimenti attesi per la prima parte di settembre, come la questione dell'IVA. Si è parlato nuovamente di un incremento delle accise sul gioco e sull'alcol. Chiaramente l'Automatica è chiamata in causa per quanto riguarda il gioco e il timore di nuove accise ha penalizzato il titolo del 4,7%. Per quanto riguarda Parmalat, ancora una seduta non positiva naturalmente, ma visto come ha fatto il mercato, meno 0,6%, in scia a quello che era stata la performance di venerdì, questa possibile operazione sulla brasiliana Lacteos sembra piacere al mercato e lo ha dimostrato anche oggi in una giornata negativa. Parmalat ha veramente limitato i danni. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi, poca roba, Ambro Mobiliare più 6,40, Casa Damiani più 4,60, Sunfronte e Telefonica anche bene, più 4%, ed Elica più 3,70. Fronte opposto, Neurosoft meno 32%, Mediaset meno 6,20 e G-Tech appunto meno 4,70%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Buonasera. IMU, IVA, esodati e poi tutto il pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese. Questi provvedimenti e i dossier che potrebbero saltare, o meglio, salterebbero in alcuni casi in maniera certa in caso di crisi di governo. E vorrei ragionare perché ogni giorno, diciamo, il barometro muove la sua lancetta. E vorrei ragionare con Guido Gentili, che saluto nuovamente, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Io ho anche una scheda pronta che però non ci sta, domani l'ascoltiamo con tutti i provvedimenti, tanto mi sa che anche domani il tema c'è. Temo che ci sia, mettiamo così. Però vorrei capire con te, intanto la lancetta del barometro tuo, il barometro Gentili, verso dove vira? Brutto tempo, sereno, in questa giornata, perché i mercati oggi, pur con tutte, diciamo, le variabili che prima Pratrotti metteva in evidenza, un primo giudizio negativo l'hanno dato, Guido. Certamente, quindi diciamo, non metterei il barometro, non segna bel tempo oggi, tanto più che ai segnali che ha dato oggi il mercato, oppure una situazione che va verificata per bene, anche perché per esempio il mercato di Londra oggi era chiuso, quindi insomma è una situazione un po' particolare, però insomma è un fatto che la borsa italiana è stata la peggiore d'Europa, lo spread è risalito intorno a quota 250 e quindi diciamo con il rischio di sorpassare in peggio in questo punto di vista la Spagna, la tensione politica interna, e questo è il motivo per cui abbiamo questi segnali sui mercati, è alle stelle, il governo delle larghe intese è un po' in questo momento nei guai, tanto più che sembra che anche sull'IMU ancora oggi, ancora in queste ore, non sia stata raggiunta una intesa definitiva, il governo non ha ancora chiarito quale strada intende praticare per diciamo dare corso a quello che era l'accordo di governo e comunque diciamo in quale senso riandrà riscritta la tassazione immobiliare che riguarda l'IMU. Quindi è una situazione oggettivamente... Ecco, Guido, dimmi una cosa, secondo te è più così da guardare con attenzione la scadenza di mercoledì, perché Brunetta anche oggi l'abbiamo fatto sentire, ha detto no, noi ci aspettiamo che il governo faccia quello che ci ha promesso e vogliono una risposta sull'IMU entro mercoledì, oppure quello è solo un pretesto, ma invece la vera partita si gioca il 9 settembre? Ma dunque, io direi che diciamo la questione dell'IMU è sempre stata, la resa dei conti sull'IMU lo sapevamo che arrivava a fine agosto ed è un tema già di per sé esplosivo, primo perché non sono stati trovati ancora diciamo tutti i soldi che servivano per risolvere questa vicenda. In secondo luogo è chiaro che su questa questione già esplosiva si è sovrapposta un'altrettanto esplosiva, che è quella dell'agibilità cosiddetta del leader centrodestra Berlusconi dopo la condanna della Cassazione. Quindi è evidente che i due temi ormai coincidono e si sovrappongono l'uno con l'altro. E io credo che il 28, cioè dopodomani, il governo potrebbe anche limitarsi per in questa fase semplicemente a definire una volta per tutto, ed è diciamo un obbligo ormai di legge, che diciamo viene annullata la prima rata dell'IMU, dell'IMU certo, eccetera, ma che ci si fermi poi qui, perché per tutto quello che riguarda il resto, io credo che siamo ancora in alto mare, ancora in queste ore siamo in alto mare, questo è un segnale preoccupante. E quindi siccome comunque sia, piaccia o non piaccia, ai mercati, alla borsa, l'incertezza non piace, e quindi è chiaro che si innesta su questo terreno di incertezza, si innestano anche le manovre speculative, certo. Io terrei conto anche di quello che c'è un'aspettativa forte per quanto riguarda le elezioni tedesche del 22 settembre. Sì, ma poi dicevamo prima con Platerotti, c'è anche tutta la parte che riguarda lo braccio di ferro tra investitori e banche centrali, perché vogliono in qualche modo allontanare il più possibile l'aumento dei tassi di interesse e le politiche restrittive. Esatto. In una battuta, la Bundesbank che oggi è spinto, è vero, esatto. Widmann pure oggi ci ha dato la sua critica a Mario Draghi quotidiana. Esatto. Siamo tutti soddisfatti di iniziare la settimana così. Dimmi una cosa, Guido, però io non posso non chiederti, insomma, quante possibilità dai al governo che tenga, quindi la maggioranza, di reggere e di tenere in piedi il governo? Rispondere con una battuta che però non è solo una battuta, secondo me è un elemento diciamo di analisi. Io ricordo nel novembre famoso del 2011, quando ci fu il passo indietro di Berlusconi, mi ricordo un lunedì, ed era il lunedì in cui la borsa andò a picco, e andò a picco in particolare il titolo Mediaset, che perse il 12,5%. Ci fu in quel giorno, era proprio quel giorno, ci fu un vertice ad Arcore con l'allora presidente del Consiglio, i figli, i vertici di Mediaset, di Fininvest, eccetera, e da lì poi diciamo maturò poi. Ora, diciamo, fatte le debite proporzioni, mi sembra che oggi, lunedì di oggi, il segnale sia stato un po' questo. Cioè con la borsa andata giù, la peggiore d'Europa, e il titolo Mediaset che è stato, come sappiamo... Ma quindi secondo te, in questo caso dammi una percentuale, tanto non rischi... In questo caso voglio dire, arrivavo a questo a dire che in fondo, e come dimostra anche diciamo il richiamo che ha fatto oggi Berlusconi ai suoi colonnelli del partito di tacere sostanzialmente, di non alimentare le polemiche. Radio 24, la passione. Si sente.